La tua città non mi dà che sconforto, vivo tra le bestie della giungla che chiuse nella gabbia non si accorgono di quanto è sporco il mondo. In cattività passo i miei giorni, ma dentro sono morto. La tua città non mi dà che sconforto, vivo tra le bestie della giungla che chiuse nella gabbia non si accorgono di quanto è sporco il mondo. In cattività passo i miei giorni come morto. La città al giorno d'oggi non dà niente, nasconde le sue gabbie dentro a cui chiude la gente, dietro a spalle fredde, sempre più strette, sino a che non passa neanche più la luce la tua mente. Non vede più quello che perde, schiacciata da revole obsolete di plasma, come quei cazzo di monitor coi quali tieni a bada i tuoi figli, le tue donne, togliendogli la libertà, mostrandogli la loro verità falsata, versione di realtà usata per usarci ai loro scopi. Ma che razza di fregatura è la democrazia se usa la filosofia di oratori molto logici, illusionisti ipocriti? Per quello che non voto più, non scelgo più chi deve fotterci, e guardo fuori dalla gabbia che hanno costruito attorno per averci in pugno, e vedo bestie tra alcolici e droghe di quelli che hanno perso la speranza e cercano conforto altrove, ma così ballano la danza con la coreografia per tenerli emarginati, senza importanza, senza pensiero né idea, con l'ego condannato dal clero e senza un proprio credo e un futuro nero e reo. Perché fuori dalla gabbia ci si perde nella giungla e non si torna indietro intero. La tua città non mi dà che sconforto, vivo tra le bestie della giungla che chiuse nella gabbia non si accorgono di quanto è sporco il mondo. In cattività passo i miei giorni, ma dentro sono morto. La tua città non mi dà che sconforto, vivo tra le bestie della giungla che chiuse nella gabbia non si accorgono di quanto è sporco il mondo. In cattività passo i miei giorni come morto.